si speciale. Io devo dirvi grazie, perché io so chi sei e so quanto amore dai. Io so chi sei e so molto bene quanto vali. Ne ho perso tempo a crescere e ne ho bruciata d'erba per divenire tale, per ritrovarmi. E mi fa tanto male, sai, vederti lì a soccombere per la paura di svanire. So.